La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 39. L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. L'articolo 39 riguarda il tema dei sindacati. I sindacati sono e restano uno dei corpi intermedi fondamentali nell'organizzazione di uno Stato perché sono i rappresentanti dei lavoratori. Ma tuttavia il Costituente aveva la difficoltà di dover affrontare il tema dei sindacati dopo che storicamente il ventennio fascista aveva incorporato il sindacato all'interno della struttura statale mediante la modalità delle corporazioni. Ecco allora che il primo comma dell'articolo 39 sancisce innanzitutto la libertà del sindacato. L'organizzazione sindacale è libera, punto. Affermazione di principio, affermazione incondizionata, proprio per far capire che il nuovo Stato, la Repubblica, pone la libertà sindacale. Tuttavia, ci fu un lungo dibattito per cercare di comprendere le modalità mediante le quali le organizzazioni sindacali potessero partecipare alla gestione della macchina lavorativa. Ecco che allora vengono previsti tutta una serie di commi che riguardano la registrazione dei sindacati, la loro personalità giuridica, la rappresentanza in base agli iscritti. Questi commi ulteriori dell'articolo 39 non hanno mai trovato attuazione, perché proprio in forza della libertà, della piena libertà sindacale, si è preferito un ordinamento sindacale che prescindesse completamente dalla registrazione e che invece potesse svolgersi in piena libertà. Questa piena libertà, tuttavia, ha creato poi negli anni diverse problematiche sul ruolo del sindacato, perché da un lato, non avendo questi obblighi di registrazione pubblica, non si riesce sempre a riconoscere subito quali siano i sindacati veramente rappresentativi e maggiormente rappresentativi nei singoli settori lavorativi. Del resto, con gli anni va anche considerato che il ruolo del sindacato sta cambiando, perché il sindacato, nella parte iniziale dell'affermazione della rivoluzione industriale, ovviamente ha avuto un ruolo fondamentale per garantire e tutelare le condizioni minime di dignità del lavoro, potremmo dire. Mentre oggi, quando ormai, almeno in gran parte delle forme lavorative, questa dignità è stata raggiunta, il sindacato deve diventare, sta diventando, anche un interlocutore costruttivo in una funzione quasi, potremmo dire, di controllo e di affiancamento delle condizioni lavorative. In alcuni settori invece del lavoro, come ben sappiamo, ciò non è ancora avvenuto, per cui il ruolo sindacale resta importante anche come interlocuzione e tutela. La modalità fondamentale di esplicazione della garanzia sindacale passa attraverso i contratti collettivi che sono i contratti di settore stipulati dai sindacati in nome e per conto dell'intera categoria, in maniera da individuare concretamente le condizioni minime, le garanzie minime normative ed economiche di lavoro. Ovviamente il contratto collettivo è una fonte ad efficacia generale che, pur non avendo trovato attuazione nelle forme dell'articolo 39, per forza giurisprudenziale si applica comunque a tutti. Questo è un punto importante. Il contratto collettivo stipulato da un sindacato comunque è un contratto che va applicato anche ai non iscritti al sindacato. Perché? Perché quel contratto collettivo è la base minima di trattamento economico e normativo che in giurisprudenza i giudici riconosceranno a tutti e quindi i datori di lavoro devono comunque applicare. bisogno.